Oh, i peggiori amici nostri. La questura. Per questa fase di cazzo, ce l'ho io la cura. Fai saltare la questura, fai saltare la questura, fai saltare la questura, fai saltare la questura. Fai saltare la questura,